in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che oggi, come potete immaginare, sono dominati dalla cronaca che viene dalle novità sull'autopsia del corpo di Giulio Regeni, che è tornato in Italia, e su naturalmente tutti i retroscena sulla sua morte. Cominciamo però dal Sole 24 Ore, che ha un approfondimento economico, perché come sapete dicembre e gennaio sono stati mesi tremendi per le borse. È successo, ma in realtà l'andamento delle borse riflette poi una serie di scossoni finanziari ed economici che riguardano il prezzo del petrolio, il rallentamento della crescita cinese, ancora una volta le mosse delle varie banche centrali, e quindi è oggi l'occasione per fare un po' il punto su quello che è successo appunto all'inizio del 2016 e alla fine del 2015. Il titolo del Sole 24 Ore: l'euro ai massimi da un anno schiaccia le borse europee, con un'analisi di Walter Riolfi, schermaglie tra banche centrali, e un sommario che ci ricorda che la sola piazza affari, cioè la borsa di Milano, la borsa italiana, ha perso il 19,5% in 6 settimane. Interessante anche un approfondimento di Marco Fortis a proposito di fact checking, o meglio ancora di number checking, cioè si dice sempre, alcuni non ci credono o pensano che sia una sorta di entusiasmo obbligato quando si dice che il sistema bancario italiano è solido. Marco Fortis ha analizzato i bilanci delle principali banche italiane, e da cui si deduce appunto che questi bilanci sono solidi. Poi naturalmente sappiamo, ci sono i casi, c'è il grande malato Monte dei Paschi di Siena tra le grandi banche, ci sono le piccole banche come Banca Etruria, che è stata oggetto ed è ancora oggetto di tante polemiche per il decreto fatto a fine anno che l'ha salvata insieme ad altre tre banche prima che entrassero in vigore le norme europee che vietano ai governi di salvare gli istituti bancari in crisi. Però appunto Marco Fortis, economista, analizzando i bilanci, giunge a questa conclusione. Un approfondimento come sempre la domenica su un singolo titolo quotato è la rubrica Lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, che questa settimana si focalizza su Ferragamo, che circa 2 settimane fa ha pubblicato i dati preliminari, cioè che riguardano solo i ricavi e la divisione dei ricavi, mancano i dati sulla redditività che arriveranno tra un po'. Comunque il senso dell'analisi di Vittorio Carlini su questo titolo è focus sulla pelletteria, la scommessa sul cliente turista. Infatti Ferragamo è da sempre uno dei marchi del lusso che più investe nel travel retail, cioè in tutti quei negozi, soprattutto negli aeroporti, e qui appunto l'idea di cliente turista. Naturalmente anche il Sole 24 Ore parla del caso Regeni, con la cronaca che trovate a pagina 6 del Sole, l'autopsia: Giulio ucciso con un colpo alla testa, e poi un'analisi di Alberto Negri, il vero volto dell'Egitto che nessuno vuole vedere, e questo anche lo trovate poi a pagina 6. La prima pagina del Corriere della Sera titola, come vi dicevo, insieme a molti altri, a quasi tutti gli altri quotidiani generalisti, sulla questione appunto della morte di Giulio Regeni e il più ampio scenario dell'Egitto in questo momento. Quindi il titolo scelto dal Corriere è: l'Egitto, puniremo gli eccessi. Si è scoperto appunto che Giulio Regeni è morto probabilmente per un colpo alla testa, ma soprattutto che è stato torturato per 4 giorni. Gli investigatori dicono volevano far sparire il corpo, che invece, come sappiamo, è stato ritrovato. C'è un commento un po' forzato, a mio parere, di Beppe Severgnini, che parte dal caso di Giulio Regeni e si intitola "I nostri ragazzi nell'epoca dell'insicurezza", e lo trovate inizia pagina in copertina, lo trovate poi a pagina 23. Vi leggo le prime righe. Giulio, come i ragazzi di una nuova generazione, i post-Italians, quelli che partono per un altro paese, tornano e ripartono, liquidi e veloci come i loro strumenti e i loro mestieri, disseminati per un mondo dove la precarietà si è aggiunta all'insicurezza. Sono più vulnerabili, ma ammirevoli. E appunto quello che mi lascia perplessa è che sicuramente, cioè, i giovani sono sempre partiti, e quando si parte si va in luoghi pericolosi. Non credo che sia una novità di oggi che si rischia la vita. Ciò non toglie che sicuramente la parola ammirevoli, l'aggettivo ammirevoli è giustificato per persone come Giulio Regeni, che sapevano di andare appunto in luoghi molto pericolosi e svolgere anche un'attività pericolosa che sulla carta era quella di ricercatore universitario, ma che poi in realtà era oggettivamente appunto pericolosa, perché in un paese come l'Egitto non è evidentemente facile neppure fare il ricercatore universitario occupandosi di questi temi del sindacalismo in un paese appunto come l'Egitto. C'è però anche molto spazio sulla Corriere della Sera alle dichiarazioni di Grillo, che avete sentito nei telegiornali, nei giornali radio, con questo cambio di linea sulla legge sulle unioni civili, il disegno di legge Cirinnà che si dovrebbe votare settimana prossima. Grillo, dopo che per settimane lui e tutti gli esponenti di punta del Movimento 5 Stelle avevano detto su questa legge miracolosamente siamo d'accordo con il PD, adesso invece ha cambiato idea e lascia libertà di voto, in particolare sul famoso, famigerato potremmo dire, articolo 5, quello sulla stepchild adoption, cioè sulla possibilità di adottare il figlio del compagno dello stesso sesso o di sesso diverso. La Repubblica titola proprio su questo: Grillo, voto libero sulle unioni civili, Movimento 5 Stelle in rivolta, che mi sembra una definizione un po' esagerata, però è vero che sempre guardando, perché così si fa per analizzare il Movimento 5 Stelle ed è secondo me un'analisi che lascia un po' il tempo che trova, comunque sempre analizzando i commenti ai post di Grillo sul suo blog, parrebbe che questa uscita di Grillo sulla libertà di voto, libertà di coscienza di voto sulla legge, sul decreto di legge Cirinnà, abbia scatenato appunto quella che Repubblica definisce una rivolta all'interno del movimento. La fotonotizia però è dedicata alla manifestazione che c'è stata ieri al Cairo in ricordo di Giulio Regeni, e poi naturalmente il titolo che richiama tutti i pezzi a pagina 2 e 3 sulla cronaca, sevizie, botte, poi il collo spezzato, la verità sull'assassinio di Giulio. E poi vi segnalo anche un bellissimo articolo di Enzo Bianchi, il priore di Bose, su questo storico incontro che ci sarà tra Papa Francesco e il patriarca della Chiesa russa Kirill. Quando e dove vuole il patriarca, così nasce l'incontro Francesco-Kirill. Appunto Enzo Bianchi ci racconta come è nata questo incontro che si terrà il 12 di febbraio, pensate, a Cuba, perché per una strana coincidenza, però per una coincidenza voluta oppure sfruttando una coincidenza, in quel momento appunto Papa Francesco sarà di ritorno dal suo viaggio in Messico e il patriarca Kirill si fermerà a Cuba e lì si incontreranno. La Stampa, Unioni Civili, siluro di Grillo, ancora più chiaro questo titolo. Secondo La Stampa, infatti, la dichiarazione di Grillo è un grande pericolo al passaggio della legge, del decreto legge Cirinnà sulle unioni civili. La fotonotizia è molto simile a quella della Repubblica, il Cairo, lacrime per Giulio. Il Messaggero, anche in questo caso, titola proprio su questa che viene definita la mossa di Grillo, caos, unioni civili, e c'è una intervista che poi magari di cui leggeremo una parte a Emma Bonino, invece sulla questione dell'uccisione di Giulio Regeni. Naturalmente anche il Messaggero fa la cronaca, ma l'intervista di Emma Bonino, che è intitolata "Alleati non significa che si deve tollerare tutto", infatti Italia e Egitto sono di fatto alleati, però su questa questione appunto Emma Bonino dice bisogna chiedere la massima chiarezza, come peraltro per ora hanno assicurato di fare sia il Premier, sia il Ministro degli Esteri Gentiloni, sia il Ministro della Giustizia Orlando ieri accogliendo la salma di Giulio Regeni quando è atterrata a Fiumicino. E poi questa notizia, veramente, se ci fosse Alessandro più da mani sul volante di così non posso pensare: affitti, l'ultima beffa, agli inquilini abusivi la proprietà della casa. Il riferimento è allo scandalo, l'ultimissimo scandalo in ordine di tempo di Roma. Si è scoperto appunto di tutta questa lunghissima lista di affitti di immobili del comune, con affitti in zone di pregio a canoni ridicoli, perché di questo si tratta, poche decine di euro al mese. Adesso c'è questo rischio di l'usucapione. L'usucapione è una forma giuridica per la quale se si approfitta di un bene per un certo periodo di tempo, varia a seconda della tipologia di bene, se ne diventa proprietari. Ecco, allora il rischio uso copione per il comune di Roma, via 200 immobili, danni di centinaia di milioni. L'Avvenire titola su anche a sua volta sulla questione delle unioni civili e delle adozioni, lo stralcio è possibile. E il riferimento è appunto al fatto che con questa presa di posizione di Beppe Grillo gli scenari sono molto più incerti. Sulla prima pagina dell'Avvenire anche una foto, notizia su ieri la visita di Padre Pio alla teca che contiene il corpo di la visita di Papa Francesco alla teca che contiene il corpo di Padre Pio, e il titolo scelto dall'Avvenire: la preghiera muove il mondo, questo ha detto ieri Papa Bergoglio. Un'ultima segnalazione dalla prima pagina dell'Avvenire con un'inchiesta che prende spunto dal fatto che la Turchia ha bloccato le frontiere per cercare di arginare questa nuova ondata incredibile di migranti dalla Siria e da Aleppo in particolare, e l'Avvenire prende lo spunto per fare uno studio e spiegare che nel mondo gli schiavi, proprio persone ridotte in uno stato di schiavitù, cioè di totale mancanza di libertà e anche poi di costrizione soprattutto al lavoro forzato, nel mondo gli schiavi sarebbero 21 milioni. Ultimissima copertina prima di lasciarci un attimo per una pausa, anche per sentire gli aggiornamenti sul metro, quella dell'Unità, la prima pagina dell'Unità, che è dedicata un po' alle primarie che ci sono state ieri e ci saranno oggi a Milano, primarie per scegliere il candidato sindaco del PD. Vota Milano, una buona giornata di primarie, e poi questo titolo, il Vaffa Day è contro Grillo, anche qui presumendo che la base del Movimento 5 Stelle sia contraria alla presa di posizione di Beppe Grillo. Ma ci fermiamo ora un attimo, ci ritroviamo tra qualche minuto. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, grazie a Massimo, l'ascoltatore che insomma apprezza la mia voce, soprattutto non posso che ringraziarlo. Eravamo sulle prime pagine dei giornali e quella di Libero ha un titolo diverso da quelle che abbiamo visto sugli altri, cioè che si concentrano soprattutto sulla dichiarazione di Grillo che ha dato libertà di coscienza al Movimento 5 Stelle sulla legge Cirinnà e sul decreto di legge Cirinnà e sul disegno di legge, scusate, Cirinnà, e l'altro grande argomento che è la morte di Giulio Regeni in Egitto. Libero invece titola con una sua inchiesta fatta intervistando una coppia che ha fatto ricorso alla maternità surrogata. Il titolo è questo: dove ci porterà la Cirinnà? Abbiamo comprato un bimbo e ci hanno fatto pure lo sconto. Ricordiamo due cose: che il disegno di legge Cirinnà non prevede la maternità surrogata, che è in Italia è un reato. Il riferimento a tutti quelli che dicono che il disegno di legge Cirinnà apre la strada alla maternità surrogata è di nuovo il famoso famigerato articolo 5, quello sulla stepchild adoption, che secondo molti sarebbe come una specie di cavallo di Troia per appunto facilitare le adozioni del figlio del coniuge e quindi facilitare, rendere più, comunque far pensare alle persone che conviene ricorrere alla maternità surrogata, cosa che naturalmente si può fare, ripeto, non in Italia ma andando all'estero e poi tornando in Italia col bambino avuto grazie a una madre surrogata, il cosiddetto utero in affitto. Il titolo il sommario di questa inchiesta, con alcuni dettagli raccontati da questa coppia, è: potevamo trattare su tutto, stanza d'ospedale, occhi della ragazza, altezza, menù dei 9 mesi, si è chiuso per 29.000 euro, risultato garantito anche se tra noi ci sono 30 anni di differenza. Ricordiamo naturalmente che alla maternità surrogata ricorrono anche le coppie eterosessuali, non certo solo quelle omosessuali, cioè anche le coppie eterosessuali che non possono avere figli in un altro modo. E poi vi segnalo dalla prima pagina di Libero l'ennesimo capitolo della guerra, perché di guerra si tratta, di Antonio Socci, esponente storico di Comunione e Liberazione, contro Bergoglio, perché vi leggo spesso i suoi articoli su Libero, c'è sempre un motivo, c'è sempre una scusa, se non è per un motivo è per un altro. Socci si scaglia letteralmente contro Papa Bergoglio. Oggi il titolo è questo, dopo che avete sentito, chi di voi ha sentito in Oltretevere, in realtà qual è la posizione ufficiale della Chiesa su questa decisione di Papa Bergoglio di portare la salma di Padre Pio a Roma durante il giubileo. Il titolo dell'articolo di Antonio Socci è: perché Padre Pio è l'opposto di Bergoglio, il santo che ha salvato il giubileo di Francesco. Vi leggo le prime righe, poi il resto lo trovate a pagina 15 se avete voglia, però per darvi l'idea dell'attacco di oggi. Il complotto per cambiare il cattolicesimo, ovvero il progetto del Papa argentino per trasformare la Chiesa in succursale di Repubblica, Repubblica il giornale, e di Greenpeace, ha l'entusiastico consenso di tutti i più acerrimi nemici di sempre della fede cattolica. Vabbè, ognuno si può fare la sua opinione su questa opinione di Antonio Socci. La prima pagina del giornale è dedicata invece alla posizione, alla presa di posizione di Grillo. Grillo si converte, sommario caos 5 stelle, o meglio occhiello, scusatemi, caos 5 stelle, sommario Beppe cambia idea, libertà di coscienza sulle unioni civili, scoppia la rivolta della base del movimento. E poi quella che il giornale definisce l'ipocrisia di Alfano, ma sapete che il giornale è uno dei più acerrimi critici del ministro dell'Interno Alfano, esponente dell'NCD, da quando è uscito da Forza Italia, esulta, quindi l'ipocrisia di Alfano, che esulta contro i suoi alleati, ora la legge è in bilico, il riferimento naturalmente al fatto che, come tutti sappiamo, in questo momento noi abbiamo un governo in cui appunto sono alleati PD e NCD, sono i due principali membri del governo, poi c'è Scelta Civica e altri partiti. Il Fatto Quotidiano titola sulle primarie di Milano, che abbiamo detto in corso da ieri, ma in realtà ieri erano aperti soltanto una decina di seggi, oggi ne saranno aperti 150. L'ultima volta per Giuliano Pisapia erano andati a votare, quando poi Giuliano Pisapia divenne il candidato sindaco e poi vinse divenne sindaco di Milano, erano andati a votare in 60.000, ieri sono stati circa 8.000, il PD naturalmente, il PD milanese e lombardo, spera che venga eguagliata quella cifra. Il titolo del Fatto Quotidiano: solite primarie a Milano, grosso guaio a Chinatown, in riferimento in realtà è una denuncia che viene soprattutto dagli esponenti del centrodestra, che appunto per sale, che molti cinesi sarebbero stati invitati, la comunità cinese milanese che è molto numerosa sarebbe stata invitata a votare per Sala. Si sono visti i cinesi alle urne, come si possa già prevedere per chi hanno votato, non so, comunque questa è la teoria del centrodestra, mi sembra sposata dal Fatto Quotidiano, che poi ha in prima pagina anche le indagini sulla morte di Giulio Regeni, violento pestaggio, l'Egitto fa due arresti patacca, perché sapete che le due persone che erano state arrestate due giorni fa, in realtà poi ieri sono state rilasciate, arrestate in connessione all'omicidio di Giulio Regeni. Anche il Manifesto titola su questo e sulle prime risultanze dell'autopsia, della seconda autopsia, quella che è stata fatta in Italia. È stato ucciso con un colpo alla testa dopo una settimana di sevizie. Prima avevamo visto su Repubblica quattro giorni, una settimana, deve essere stata comunque una morte atroce. Il Quotidiano, però, il Manifesto ha il titolo principale, corredato come sempre da una fotografia, è scoppiato, e la fotografia è quella di Beppe Grillo con la bocca spalancata, e credo che sia stato, è una fotografia scattata durante un comizio. Sulle adozioni libertà di coscienza, pochi giorni dal voto sulle unioni civili, Beppe Grillo sconfessa la linea dei suoi e lancia un siluro al DDL Cirinnà, e il centrodestra ringrazia, ora la legge può saltare. Questo tra l'altro è un tweet, pensate, del ministro Alfano, cioè questa è stata la reazione, ormai la politica è anche un po' ridotta a questo. Cioè le reazioni vengono affidate a Twitter anche su questioni importantissime come quella di una legge sull'unione civile, che ricordiamo l'Italia è l'unico paese praticamente in Europa e in buona parte dell'Occidente a non avere. La Gazzetta dello Sport, magari insomma finiamo anche con questa. Ieri ci sono stati due anticipi, ma oggi poi ci saranno tutte le altre partite di Serie A. E allora il titolo: Allegri Blues, perché sul futuro dell'allenatore del Milan, insomma, si fanno molte ipotesi. Pressing del Chelsea, superato Conte, però Massimiliano Allegri ha detto, rispondendo a queste voci, ogni cosa a suo tempo. Ma andiamo alle pagine interne dei giornali, torniamo sul Sole 24 Ore, e come sempre sono molto contenta di segnalare quando ci sono concreti dati, appunto number checking, fact checking sulla ripresa. Oggi Roberto Iotti, a pagina sulla copertina di Imprese e Territori, ci racconta i dati sull'export alimentare con questo scatto degli Stati Uniti. La sfida, il dato è questo, che nei primi 10 mesi del 2015 gli Stati Uniti hanno sorpassato la Francia come export alimentare con una crescita del 20,1% e sono diventati il secondo mercato di sbocco. Il primo mercato di sbocco del nostro export alimentare resta la Germania. La sfida ora è spingere le aziende italiane a produrre commodity nei paesi emergenti. Sempre dalle pagine interne del Sole 24 Ore, un approfondimento fiscale che però riguarda tutti, perché entro martedì medici e strutture sanitarie dovranno trasmettere i dati, riscontri anche sui familiari a carico, quindi il titolo è precompilata all'esame scontrini. In due casi su tre sarà necessario verificare l'importo delle spese relative ai farmaci. Quindi, se vogliamo, un po' un'ulteriore complicazione per noi contribuenti, ma anche appunto per tutti i medici e le strutture sanitarie che devono adeguarsi a queste nuove norme. Dalle pagine interne del Sole anche un interessante articolo di Gordon Brown, che è stato premier della Gran Bretagna e ora è impegnato in molte organizzazioni non governative, racconta sul futuro dell'educazione italiano, ma soprattutto internazionale, che potrebbe, insomma, se si lavorasse davvero a un piano globale per l'istruzione, con 20 miliardi di dollari all'anno si potrebbe garantire una formazione a tutti i bambini. E sappiamo quanto la scuola, l'istruzione sia anche forse lo strumento più potente per scongiurare che in molti paesi i bambini vengano reclutati o come bambini soldato o dalle organizzazioni terroristiche. Approfondimento di Francesco Antonioli che riguarda l'Italia, con questa iniziativa della Fondazione Giovanni Agnelli e Save the Children, come vincere la dispersione scolastica, in questo caso in Italia. Il progetto ha coinvolto 1700 allievi di 6 città italiane. Il gioco di squadra fra istituzioni, genitori e insegnanti fa diminuire assenze e ritardi, perché appunto la dispersione scolastica è un problema anche in Italia. A proposito della questione egiziana, vi segnalo sul Corriere, a pagina 5, un'intervista di Viviana Mazza al ministro degli esteri egiziano, che dice no ad accuse senza prove, ma assicura i colpevoli verranno puniti. Vedremo, bisognerebbe tenerla via questa intervista e vedere se alle parole seguiranno i fatti. Sulla questione delle primarie vi segnalo sempre dal Corriere della Sera, pagina 11, un'intervista a un imprenditore che a Milano è abbastanza famoso perché è dell'Unione degli Imprenditori Italia-Cina, è molto giovane, ha 34 anni, si chiama Francesco Wu, è italo-cinese e dice, su queste accuse di cui vi ho parlato prima del centrodestra milanese, che appunto i cinesi sarebbero stati mandati in massa a votare per Sala, accuse assurde, Sala non ci ha promesso nulla. È poi molto divertente quanto si parla di vegetariani e vegani, chi segue la Zanzara sa per esempio anche che sono un po' un'ossessione di Giuseppe Cruciani, i vegani, sicuramente c'è una componente moda in questo tipo di alimentazione, però anche invece ci sono vegetariani e vegani da moltissimi anni. Allora Rita Querzé, che spesso si occupa di questioni di salute, a pagina 21 del Corriere, quanto valgono vegetariani e vegani, e poi anche alcuni esempi di vegetariani o vegani famosi, per esempio Natalie Portman, l'attrice, Paul McCartney, Carl Lewis e l'ex campionessa di tennis Martina Navratilova. Ultima segnalazione, prima di lasciarci un attimo per la pausa sul traffico, un'intervista a Michele Emiliano, governatore della Puglia, che commenta l'arresto per corruzione del sindaco di Brindisi, che 3 anni fa si era autosospeso dal PD per un'altra storia di malaffare. Il titolo dell'intervista di Giuliano Foschini è «Lo combatto da anni, vantava amici a Roma». Da PM, perché Emiliano è appunto un ex pubblico ministero, ho arrestato il padre e lo zio del suo assessore. Non ho rapporti con lui, ho detto a Guerini, sapete, il vicepresidente del PD, che ci sono gli anticorpi per combattere appunto casi di questo genere. Ma ci lasciamo un attimo per gli aggiornamenti sul traffico. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, e per me sicuramente è una domenica iniziata bene, perché oggi arrivano dei messaggi veramente gentili e carini, e a queste ragazze per esempio del bar Rendezvous a Portico di Caserta, che dicono che ci ascoltano sempre, e sicuramente mando tutti i miei saluti e gli auguri di una buonissima giornata. Ma torniamo sulle pagine interne, sempre per la questione dell'uccisione, della morte di Giulio Regeni in Egitto, dell'assassinio di Giulio Regeni in Egitto, un retroscena raccontato da Francesca Paci sulla Stampa, pagina 9. Il leader dei sindacalisti, uno dei leader dei sindacalisti egiziani, Kamal Abbas, i sindacalisti fanno paura al regime perché riescono a riempire le piazze. Quelli indipendenti rappresentano 25 milioni di operai e impiegati contro i 6 milioni invece dei sindacalisti cosiddetti filogovernativi. E poi un'inchiesta della Stampa che fa paura a tutti come me, tutti quelli che come me amano ancora ogni tanto usare la posta per mandare gli auguri, per scrivere una lettera ogni tanto. È un viaggio nel centro di smistamento delle lettere di Roma, uno snodo che rallenta la rete delle consegne. Non c'è posta per tutti, il titolo dell'inchiesta della Stampa, il buco nero di Fiumicino. Vi dicevo, per chi però ripeto, mani sul volante, sul Messaggero invece l'approfondimento sulla questione degli affitti a prezzi stracciatissimi, più che stracciatissimi, del patrimonio immobiliare del Comune di Roma. A pagina 11, il Campidoglio rischia di perdere per usucapione, appunto, vi dicevo, questo istituto giuridico che prevede che dopo un po' che uno usa un bene diventa giuridicamente proprietario, anche se all'inizio non lo era. Ecco, 200 di queste case potrebbero essere perdute dal Comune di Roma per usucapione, perché sono occupate a vario titolo da almeno 20 anni. Il commissario straordinario Tronca ha già iniziato a trasmettere alla Procura i primi risultati del suo lavoro. Vi dicevo la Padre Pio e l'incontro, potremmo dire così, tra Papa Francesco, che ieri ha pregato davanti alla teca che contiene la salma di Padre Pio, sull'avvenire. Padre Pio, carezza vivente di Dio, il Papa ha detto, mostrò che la preghiera è la forza che muove il mondo. E poi il Papa ha detto anche questa frase, secondo me bellissima: la preghiera non è un'aspirina, appunto, è una forza che può muovere il mondo, ma non va considerata un'aspirina. E poi, a proposito di posizioni sulla questione delle unioni civili, ho trovato bello e coraggioso anche questo forum che si è tenuto ad Avvenire con Michela Marzano, esponente del PD, filosofa che è sostenitrice della legge sulle unioni civili, con Chiara Azzori, Amore, gender e utero in affitto, quando il confronto è possibile, questo forum dove appunto si confrontano le varie posizioni. Passiamo ai supplementi culturali, cominciamo come sempre dalla domenica, la nostra domenica del Sole 24 Ore. Il breviario di Gianfranco Ravasi oggi si intitola L'appetito ed è parte da una massima di Nicolas de Chamfort, uno scrittore francese, e la massima è questa: la società è composta di due grandi classi, quelli che hanno più roba da mangiare che appetito e quelli che hanno appetito più che roba da mangiare. Netta e indiscutibile la linea di demarcazione tracciata da Nicolas de Chamfort, lo scrittore moralista francese del Settecento, nelle sue massime e pensieri. Sulla tavola del mondo, da un lato c'è un gruppo di persone che ha davanti una mole immensa di portate e non ha più appetito, anzi ha problemi di dieta, mentre dall'altro lato c'è una folla che ha solo qualche residuo ed è costretta a placare l'appetito allungando gli occhi verso il ben di Dio posseduto dagli altri. Aveva ragione anche Brecht quando nel suo breviario tedesco annotava: per chi sta in alto, discorrere di mangiare è cosa bassa, si capisce, loro hanno già mangiato. La fame è uno dei quattro cavalieri dell'Apocalisse e il suo cavallo nero corre per le lande desertiche e lungo le periferie del nostro pianeta, ove i genitori stringono tra le braccia bimbi denutriti. È per questo che noi, seduti al lato imbandito di quella tavola, non possiamo ignorare quei visi smunti e quegli occhioni spalancati sul nostro pranzo abbondante. E ricorderete, forse proprio settimana scorsa avevamo anche dato spazio alle notizie rilanciate da Medici Senza Frontiere sulle condizioni di semicarestia che ci sono anche in molti campi profughi e che coinvolgono tantissime persone che scappano dalle guerre, in particolare in questo momento i siriani. Dalla prima pagina della domenica anche il memorandum del nostro direttore, nostro di Radio 24 del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, che oggi ci racconta la storia di questa bellissima iniziativa che si chiama Farm Cultural Park ed è a Favara, in provincia di Agrigento, un ex masseria dove si dà ospitalità ai giovani che hanno idee per delle start-up con una forte componente tecnologica. Roberto Napoletano ce ne racconta la storia e poi tira anche un po' una conclusione, una considerazione partendo da questa storia. Il mezzogiorno ha davanti a sé un cammino difficile, tutto in salita. Non basterà un circuito economico vitale di start-up in provincia di Agrigento a farlo ripartire. Eppure è bello scoprire che in un pezzo di terra pieno di storia e di povertà stanno insieme vecchie e nuove generazioni. Si è deciso di scommettere su artigianato e digitale. Scuola e territorio finalmente dialogano e si aprono alle menti migliori, facce nuove, ragionamenti nuovi entrano nelle aule degli istituti tecnici a Bagheria e dintorni. Dalle pagine interne della domenica anche una bella recensione a questo libro di Giuseppe Sgarbi, che è il papà di Vittorio Sgarbi, meno famoso appunto di cotanto figlio, che però ha scritto un libro, che ha una prefazione di Claudio Magris, che racconta un po' della sua vita, ma soprattutto cerca anche di fare delle riflessioni, appunto un po' da grande vecchio. E quindi il titolo della recensione di Salvatore Nigro, Vecchiaia come conquista. Non chiedere cosa sarà il futuro, una citazione di Orazio per riflettere sull'età più avanzata e quella che potrebbe essere forse una vittoria un po' sul tempo. Vi segnalo anche una bellissima recensione di Salvatore Settis a un libro, La lunga guerra per l'ambiente, di Elena Croce, che è stata una delle prime paladine del paesaggio italiano. È scomparsa nel 1994, un po' appunto un'antesignana di tutte quelle organizzazioni, Fa in Testa, ma anche altre, che cercano di salvare il nostro patrimonio ambientale, ma naturalmente anche culturale e artistico. Per chi volesse una recensione sul film di Quentin Tarantino, che insomma divide molto, c'è chi dice che è un capolavoro, chi dice no, però tutti forse invitano comunque ad andarlo a vedere, l'ottavo film di Quentin Tarantino, che si chiama anche The Hateful Eight, la recensione di Cristina Battocletti, Provaci ancora Quentin, un western filologico, lo definisce Cristina, pepato da esplosioni di teste e da sincera partigianeria contro i razzisti, ma è tutto già visto. Questa è un po' anche la critica che è venuta da più parti, che non è poi così nuovo, ci si aspetta sempre da Quentin Tarantino, forse questo è un po' il problema dei geni, che poi ci si aspetta sempre che il capolavoro, che si vada di capolavoro in capolavoro, ma forse insomma ogni tanto può anche essere qualcosa di meno che un capolavoro. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, affida la copertina a un artista, in questo caso è Mario Bellini, che è un architetto ma anche un designer, figura molto eclettica, appunto suo il disegno di copertina della lettura. Vi segnalo dall'interno un bellissimo articolo di Federico Colonna che si intitola Benvenuti nella biocittà. Piazza quando c'è il sole, stagno quando piove, così le metropoli, Copenaghen in testa in Danimarca, adottano piani per quartieri natura compatibili. Si parla tanto di inquinamento in questi giorni, qui a Milano oggi piove, forse per qualche giorno torneremo a livelli di inquinamento meno nocivi, però poi ci sono le strategie di medio-lungo periodo, che appunto possono essere per esempio tutti questi stratagemmi per sfruttare al meglio anche il clima, i cambiamenti climatici di giorno in giorno. E poi una recensione che ho trovato bellissima, questo libro che si chiama T-Veg, la storia di un dinosauro vegetariano, che in realtà è un libro per bambini, però che racconta, come spesso fanno i libri per bambini, anche temi importanti e che può essere letto, perché no, anche dagli adulti o magari dagli adulti insieme ai bambini. Cosa succede nella comunità dei predatori più temibili della preistoria se uno di loro mangia frutta e verdura? La risposta in un volume illustrato che è anche un inno alla diversità. Abbiamo ancora pochissimo tempo, vi segnalo la copertina della Domenica della Repubblica, che si intitola Come si diventa GA di John. È ancora una volta un'inchiesta su appunto come giovani ragazzi cresciuti, magari anche nati in grandi città occidentali, poi sposano la causa del terrorismo jihadista. Sempre dalla Repubblica, della serie Straparlando, sapete, quelle interviste belle, lunghe della Domenica, corredate da un'illustrazione di Riccardo Mannelli. Questa volta Antonio Gnoli ha scelto un grande fotografo, Milton Jendel, che racconta: ho scattato fotografie per un secolo, ma mi sento ancora un volto sfocato. Il Messaggero invece ha una lunga, il supplemento culturale del Messaggero è una recensione a un libro di Mason Carey che racconta le abitudini, tic, le manie che permettevano ai grandi scrittori, pittori e musicisti di dar vita alle loro opere, quando il rituale fa l'artista. Questo è il titolo della recensione. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi per oggi, grazie a Carmelo Lauricelli in regia, grazie a tutti gli ascoltatori e una buona domenica da Giulia Crivelli.